sociale, alla maniera del web, è un mercato in cui le persone si incontrano direttamente, senza quindi intermediazioni, e si scambiano denaro sotto forma di prestito. È un po', se vogliamo ricorrere a un paragone molto, molto noto, è una specie di eBay del denaro in cui invece di oggetti ci si scambia denaro, appunto. Quindi in questo caso internet avvicina le persone e toglie di mezzo i classici intermediari che fanno prestiti, le banche in primis, ma poi anche tutta un'altra serie di società. Come funziona? Quindi immaginiamo che una persona voglia e sia nella possibilità di offrire denaro, di prestare denaro, e un'altra persona che invece sia alla ricerca di un prestito per fare un acquisto. Esattamente, sono le due componenti, noi li chiamiamo prestatori e richiedenti. Il prestatore può decidere di investire una certa somma per un certo periodo di tempo, parliamo di 12, 24, 36 mesi, a un certo tasso di rendimento. Quindi si forma una liquidità sul mercato a cui possono attingere dei richiedenti che, a seconda delle loro necessità, vanno a chiedere un prestito personale che può andare dai 1.500 euro ai 15.000 euro. Si innesta un gioco di domanda e offerta, per cui il richiedente gli viene offerto il prestito a un certo tasso. Il tasso a cui viene offerto è determinato dal merito creditizio del richiedente stesso, nel senso che quando il richiedente fa tutta la sua richiesta di prestito, specifica tutte le sue condizioni reddituali e patrimoniali, e noi andiamo poi a verificare tutta la sua storia creditizia con un'interrogazione a una banca dati. In questo modo lui viene attribuito a un mercato. Noi abbiamo quattro mercati, da A più a C. Secondo il mercato a cui viene attribuito, avrà una rata e un tasso conseguente. Senta, come faccio ad essere sicuro che il sistema mi ripaghi del denaro che io ho messo a disposizione per prestiti? C'è sicuramente un primo accorgimento molto importante che risiede nel fatto che il prestito non è fatto direttamente tra una persona e un'altra persona, ma il rischio viene è suddiviso su 50 persone diverse, quindi io prestatore che ho chiesto che ho fatto un'offerta, vedo la mia offerta che va a suddividere su 50 diversi richiedenti. Questo vuol dire che se un richiedente è insolvente, io metto a rischio il 2% del mio capitale che ho investito. E questo è il primo accorgimento. Poi la seconda cosa molto importante è che facciamo una selezione molto accurata, quindi siamo a livello dei migliori pagatori, diciamo. Se ci sono poi dei casi di insolvenza, si passa al recupero credito, che viene gestito da noi in maniera tradizionale. Tenete conto però che, voglio dire, nella storia per esempio di Zoppa nel Regno Unito, in più di 2 anni di attività, il tasso di insolvenza rilevato è stato dello 0,2%. Questo è un sistema che è nato appunto in Gran Bretagna? Sì, questo è nato in Gran Bretagna, da un gruppo di manager che aveva fondato Egg, una famosa banca online che poi è stata venduta a NatWest. Questi manager, conoscendo bene l'ambiente, hanno pensato che ci fosse una possibilità di disintermediazione e hanno aperto il primo sito di social lending al mondo. Dopodiché sono sbarcati di recente negli Stati Uniti d'America e adesso abbiamo aperto anche in Italia.